buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Siamo tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con la trasmissione di approfondimento Semi del suicidio, i costi umani dell'ingegneria genetica in agricoltura. Abbiamo con noi in studio Laura Corradi, che appunto presenterà l'ultimo libro di Vandana Shiva, Semi del suicidio, i costi umani dell'ingegneria genetica in agricoltura. Sì, appunto, curato insieme, poi ci racconterai la vostra, insomma, collaborazione per la produzione di questo testo, che appunto focalizza l'attenzione, fa emergere un dato abbastanza sottovalutato intanto, e anche che offre un punto di vista originale, che è quello dei suicidi. E del suicidio appunto come indicatore dello stato di malessere di una società. Leggiamo magari una parte della quarta di copertina. Questo libro parla dei costi ecologici ed umani del neoliberismo, del suicidio di decine di migliaia di contadini e della sintesi di più sforzi di ricerca, appunto studi indipendenti, inchieste di sindacati, date ufficiali, poi magari ci dici meglio. Quattro attori sul palcoscenico: Stato, banche, multinazionali e contadini avvolti in una spirale letale per questi ultimi. Proprio appunto poi le multinazionali, con le loro diramazioni a livello locale, si sono garantite una distribuzione capillare di sementi ibride transgeniche e tirano le fila del prestito ad usura. L'agricoltura industrializzata diviene un'economia della guerra delle multinazionali contro i contadini. L'esistenza di brevetti sulle sementi implica un controllo sociale che solo uno stato di polizia può assicurare, dove i contadini diventano criminali. E insomma appunto questa è la prima parte della quarta di copertina, e la prima domanda, vabbè, che ti facciamo proprio su questo libro è: come nasce questa avventura con Vandana Shiva? Quando hai cominciato a pensare al tema del suicidio appunto come indicatore importante dello stato di più o meno malessere di una società? Ma parlare di suicidi evidentemente significa mettere il dito nelle piaghe del capitale, perché il suicidio, come già diceva Emil Durkheim nel secolo scorso, il suicidio è segno del fallimento della società, come appunto abbiamo capito. Questo interesse mio è nato, devo dire, prima di incontrare Vandana Shiva, quando incontrai il leader dei contadini del Karnataka Raja Raita Sangha, che è il sindacato antagonista, il sindacato di base dei contadini del Karnataka, che conta circa 10 milioni di tesserati, quindi parliamo di 10 milioni di famiglie estese indiane che fanno riferimento a questo sindacato, dopo una breve avventura negli anni 70, una breve avventura elettorale, ha preso una politica di non collaborazione con le istituzioni e non voto, nel senso che mentre invece ha lavorato molto sulla democrazia diretta. Ecco, durante l'incontro zapatista c'erano questi contadini che scambiarono le loro bandiere con l'aratro, con le bandiere dei Shem Terra, con le bandiere dei zapatisti. Quindi io li conobbi in quell'occasione, e in quell'occasione sentii parlare per la prima volta che quell'anno, nel 96, si erano suicidati 600 capifamiglia contadini. E questa cosa, mi dicevano, non era mai successa nella storia. E allora cominciai a riflettere su che cosa volesse dire. Andrai a intervistare i contadini, i leader contadini, mi portarono a fare i loro comizi, le loro marce, le loro manifestazioni, mi volevano anche far parlare nelle loro manifestazioni. E io gli portavo, insomma, degli esempi di morti sul lavoro in Italia, di morti sul lavoro in... no? Ma di suicidi sul lavoro qua, l'unico esempio che gli potevo fare era quello dei cassaintegrati Fiat, no? E nei primi anni 80 ci fu un'epidemia di cassaintegrati Fiat, dopo che i sindacati tradirono gli operai di questa grande fabbrica. E quindi ci fu un libro bianco che il comitato cassintegrati Fiat fece, che parlava appunto dei suicidi di circa 300 cassintegrati. E questo era l'unico esempio che mi potesse venire in mente, ma il loro fenomeno si estendeva a macchia d'olio, e quindi cominciai a cercare di capire che cosa ci fosse alla base di questo. E poi venne l'incontro con Vandana Shiva e con la sua, col suo istituto di ricerca, con la Research Foundation on Science, Technology and Ecology, la fondazione di ricerca sulla scienza, tecnologia ed ecologia, che ha appunto una posizione molto critica nei confronti della scienza e degli OGM. Io avevo già lavorato nei primi anni 90 in California contro gli OGM e portato in Italia molta documentazione nei centri sociali, eccetera. A metà anni 90 sugli OGM venne fatta la prima raccolta di firme contro gli OGM, ed ecco che mi trovavo qua con due grosse cose per le mani: il suicidio dei contadini e gli OGM. C'erano due miei interessi. E così, quando con Vandana pensammo alla possibilità di tradurre in italiano questo testo, ovviamente non sarebbe trattato solo di una traduzione, ma anche di una contestualizzazione di questo lavoro all'interno dell'epidemia di suicidi nelle società globali, epidemia di suicidi di lavoratori che sempre più si suicidano anche sul posto di lavoro, a dimostrazione che il capitalismo è un sistema che produce infelicità e morte, un sistema che evidentemente è maturo per il suo superamento. E infatti poi di questo superamento non mi si sente. Ah, scusate, avevo il microfono chiuso, succede, è sera. E poi di questo superamento, insomma, arriveremo a parlare. Appunto, tu hai individuato il suicidio. Un'altra cosa, sempre appunto nell'introduzione, che ho trovato interessante, anche perché appunto rapporti e ricordi anche in Italia e in Europa e anche in altri paesi, com'è la situazione. In Italia ci sono tra i 3 e 4 mila suicidi l'anno, per cui insomma 11 suicidi al giorno in Italia, e non c'è un solo sociologo, un solo psicologo che voglia affrontare questo dato, questo problema. Eh sì, perché certo, è ammettere un fallimento, no? Per cui è chiaro che è anche un dato che verrà trattato, perché è una roba troppo grossa, cioè esatto. È una roba troppo grossa questa. Ammettere che ai tempi di Durkheim erano 25 suicidi, 23 suicidi ogni quinquennio, e oggi siamo a 11 suicidi ogni giorno. Bella parabola. Evidentemente, cioè dovremmo interrogarci davvero sulla nostra vita quotidiana, dovremmo interrogarci sulle nostre relazioni, dovremmo interrogarci sulle priorità delle nostre società. E nessuno vuole mettere le mani in tanta merda. E certo, e poi non si è così tanto abituati, almeno nei discorsi generali mediatici intorno a noi, a collegare il piccolo con il grande, insomma, con il tipo appunto di sistema che abbiamo. Quello che appunto volevo dire, oltre al suicidio, tu parli anche dei lavori ad alto rischio, che comunque rientrano in una appunto generale categoria che fa emergere il fatto che viviamo in una società a rischio generalizzato piuttosto alto, quindi insomma sì, anche lo vediamo nei morti sul lavoro ogni giorno, no? 3-4 morti sul lavoro tutti i giorni, ma vediamo anche che aumenta la rischiosità del lavoro in generale, aumentano anche i rischi che le persone a questo punto si prendono volontariamente, aumentano gli hobby rischiosi, aumentano gli sport rischiosi, quelle che Beck chiama le società del rischio, evidentemente sono fatte anche di una interiorizzazione del disvalore della vita a cui ci abitua il rapporto di capitale. Certo, e poi citi anche i suicidi nelle carceri, che sono un altro aspetto di cui si parla pochissimo, ma insomma sono tutti fattori immediati intorno a noi che andrebbero rilevati con attenzione effettivamente, e gli andrebbe dato una chiave di lettura. Certo, il suicidio è un fenomeno sociale totale, è un fenomeno sociale totale. Se noi guardiamo un suicidio, vediamo tutte le variabili sociali: la classe, l'etnia, la religione, l'età, i rapporti di classe, vediamo tutto. E quindi è un fatto sociale totale, come diceva Durkheim, come diceva Marcel Mauss, è un fatto che dovremmo politicamente affrontare il più presto possibile, anche perché aumentano, oltre ai suicidi in generale, oltre ai suicidi dei lavoratori rispetto ai suicidi in generale, oltre ai suicidi sul posto di lavoro, all'interno della categoria dei suicidi di lavoro, aumentano anche i suicidi di protesta. Cioè il suicidio come forma di protesta, in Corea, per esempio, è considerato una forma di lotta. Perché? Perché se un gruppo di lavoratori decide di suicidarsi, si chiude il contratto. Beh, anche qui in Italia abbiamo avuto qualche esempio del lavoratore che si era dato fuoco, che si immola a campi d'olio. Esatto. E se passa quest'idea che dobbiamo sacrificarci volontariamente, evidentemente abbiamo perso una battaglia politica, noi come compagni, come compagne. Quindi è chiaro che ci dobbiamo interrogare su cosa significa il cambiamento, la trasformazione sociale radicale, oppure la barbarie a cui ci stiamo abituando. Io volevo chiederti se puoi sviluppare un po' la cosa, il rapporto tra i suicidi dei contadini indiani e le OGM. Forse una domanda un po' di neofitta, sì. No, ma... No. Infatti uno si chiede cosa c'entra, forse si ammalano per le OGM, oppure... No, in realtà sì, ci sono una serie anche di malattie correlate, ma non è per questo che si suicidano i contadini. I contadini si suicidano perché seminano questi nuovi prodotti, costosissimi peraltro, per cui si indebitano per comprare queste nuove sementi, e seminano questi semi del male, come adesso vengono chiamati, i semi OGM, e i raccolti che vengono promessi, questi raccolti favolosi che vengono loro promessi nel caso dell'utilizzo di sementi OGM, invece non ci sono. Il raccolto è un fallimento, la terra si secca, le capsule di cotone cadono prima di aprirsi, e il contadino si ritrova pieno di debiti e deve vendere la terra, la casa. Come ampia il fenomeno? Il fenomeno purtroppo è ampio. Tieni conto che oggi nei quattro stati indiani che sono stati analizzati nelle ricerche, che sono Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab e Karnataka, che è il più grosso stato contadino del sud, e le sementi OGM stanno avendo un grande successo di vendite, per alcune buone ragioni. La prima ragione è il ruolo colpevole dello Stato. Lo Stato indiano forniva sementi di buona qualità e certificate a prezzi calmierati a tutti i contadini. Era una politica per lo sviluppo rurale che lo Stato indiano, in maniera abbastanza coerente, aveva sempre portato avanti, ben sapendo che la sovranità alimentare per una terra che esce dalla dominazione coloniale è importantissima. Quindi dagli anni 50-60 in poi, diciamo che la struttura di supporto alla sfera rurale era stata importante. Ecco, cosa succede nei villaggi? Succede che improvvisamente lo Stato non distribuisce le sementi al tempo della semina, o invece di distribuire il 100% che serve al contadino, gliene dà il 12% o gliene dà il 20% e poi gli dice arrangiati. Quindi c'è un ruolo colpevole dello Stato, che non solo ha fatto una scelta a livello centrale neoliberista, di apertura al neoliberismo, ma anche a livello periferico poi chiude i rubinetti delle sementi a prezzi calmierati e certificate. Quindi fattore numero uno, lo Stato apre alle multinazionali. Fattore numero due, le multinazionali penetrano come una metastasi capillarmente in tutti i villaggi, hanno 3, 4, 5, addirittura 6 rivenditori di sementi, che diventano anche gli usurai, i prestasoldi a tassi altissimi, tassi del 60-70%. Questi prestasoldi privati, questi rappresentanti agenti delle multinazionali, hanno il televisore a casa col VHS e hanno una cassetta che fa vedere ai contadini famiglie sorridenti, capsule di cotone grosse come pugni, raccolti, messi favolose. I contadini pensano che questo sia vero, pensano che queste sementi daranno loro ricchezza, felicità, raccolti 4-5 volte tanto più grandi. Non hai soldi? Pagherai, il raccolto sarà così grosso, puoi pagarmi dopo. E saranno poi loro a togliergli la terra. Poi, quindi abbiamo lo Stato colpevole, le multinazionali capillari ovunque. Terzo fattore, il sistema creditizio, che dagli anni 60 aveva dei tassi di prestito per i contadini di sostegno alle aree rurali, improvvisamente si chiudono i rubinetti del credito per le aree rurali. Le banche cittadine diventano banche internazionali e le piccole banche locali non danno più diciamo i prestiti ai tassi a cui li davano prima. Danno prestiti dal 26% in su e non a tutti. 26% è tantissimo, insomma, dai 26% in su. Questi tre fattori fanno sì che il contadino, dopo che ha piantato le sementi transgeniche, si trova in grave difficoltà. Prima di tutto, prima di avere il raccolto fallimentare, deve impegnarsi in un ulteriore sborso di soldi. Perché? Perché le sementi transgeniche hanno bisogno di prodotti specifici. Le sementi Monsanto hanno bisogno di Roundup Monsanto, le sementi eccetera eccetera. In realtà dei sono kit. Dei kit. Sì. No? Quindi, e si impegnano, talvolta firmano contratti per 5-10 anni in cui si impegnano a comprare tutto quello che serve per questi, per avere questi miracolosi raccolti. E impegnano la casa, impegnano la terra. Si trovano a impegnare perfino in Mangalsutra, i lacci nuziali delle mogli, i gioielli della figlia che deve sposarsi, cioè impegnano tutto perché sanno che poi le cose rientreranno, no? Sanno che poi avranno dei grandi guadagni e invece questi grandi guadagni non vengono e i prestasoldi privati, gli agenti delle multinazionali, vanno in giro con le trombe sulle macchine e dicono i nomi di quelli che devono pagare. E questi si suicidano. Si suicidano, vengono messi all'asta la loro terra, la loro casa, le loro famiglie vanno a ingrassare le bidonville delle grandi città e interi villaggi vengono messi all'asta, interi villaggi. Ecco, questo è quello che sta succedendo nelle parti che io amo di più dell'India, che sono le aree rurali, le aree dove non c'era neanche il denaro, dove c'erano gli scambi tra contadini, dove non c'era nessuno che soffriva la fame, dove nessuna vedova era lasciata a se stessa. Ecco, oggi ci sono persone del villaggio che fanno fallire altre persone nel villaggio per togliergli la terra e per togliergli la casa. Cioè, questo è il neoliberismo a livello micro, a livello capillare. Ecco perché si suicidano. Tu parli anche appunto poi dell'alcol, per esempio, visto che hai citato la fame, che è un'altra, diciamo, indicatore del appunto questo stato di malessere, e poi magari ne parliamo anche adesso avvicinandoci un po' più al dato positivo, che invece sono, diciamo, tentativi o processi di resistenza, di trasformazione di tutto questo. E la cosa inquietante da sottolineare è che poi appunto queste grandi corporation non pagano, non hanno nessuna responsabilità né sociale né ambientale, e tutti hanno soltanto dei profitti, mentre tutti i costi e i rischi sono del contadino. Sì, ecco, la questione dell'alcolismo. Lo Stato dice che l'epidemia di suicidi è dovuta al fatto che i contadini indiani hanno cominciato a bere, oppure al fatto che i contadini indiani si sono lasciati tentare da altre donne e non sono più monogami, hanno una concubina che gli costa molto e che quindi fa fallire la famiglia. Cioè stanno praticamente biasimando la vittima per quello che sta succedendo, no? Sì. Cioè è quello che ora è vero che può essere che molti contadini cominciano a bere perché si trovano indebitati, oppure giocano ai dadi, giocano alle carte, giocano quel poco che gli rimane sperando di vincere, di poter pagare i debiti, e questo ovviamente non succede, e poi, per cui talvolta succede che si impiccano oppure ingeriscono grandi quantità di pesticida dopo avere mangiato ovviamente un po' di pane, altrimenti lo vomitano, per cui mangiano prima del pane, poi ingeriscono il pesticida per poterlo digerire e quindi per essere sicuri di morire, no? Lasciando spesso la moglie incinta, i bambini piccoli, no? Cioè una vera e propria un vero e proprio suicidio altruistico, nel senso che cercano di siccome i debiti sono a loro nome, cercano di farsi fuori per evitare che la famiglia venga fatta fuori, no? Però invece questo non succede, perché comunque la famiglia viene buttata fuori a forza dalla casa e vengono messi, anche se il debito è nominativo, cioè l'ha preso la persona, quindi con la morte della persona dovrebbe estinguersi il debito, invece questo non succede. Però siccome appunto molti provano la fortuna del gioco ai dadi oppure no, prima di impiccarsi, lo Stato dice che si sono suicidati per debiti di gioco, quindi li mette nella categoria debito di gioco, non debito per sementi transgeniche. No, quindi c'è tutta una manipolazione dei dati ufficiali che è enorme. Faccio un esempio, una piccola parentesi. Nella provincia di Bombay, lo Stato ha dichiarato solamente 1000 capifamiglia suicidi d'altro anno. La Tata Institute of Social Science, Tata è come la Fiat da noi, no? Tata Institute of Social Science è come dire la fondazione Fiat, quindi non stiamo parlando di un gruppo di attivisti, non stiamo parlando di, no? Stiamo parlando di un'istituzione che non è governativa, però comunque un'istituzione, il TISSA, il Tata Institute of Social Science è un'istituzione per tutti gli scienziati sociali, ha rifatto la stessa ricerca, ha fatto la stessa rilevazione e sono venute fuori 3000 suicidi capifamiglia contadini. Quindi è chiaro che lo Stato sta tirando a diminuire la portata dell'epidemia e anche le misure di relief, di sollievo che dà alle vedove dei contadini che si sono suicidati, sono misure di relief così una tantum, che non servono assolutamente a nulla. Anche perché molti contadini si sono suicidati sperando nel sostegno di relief per la famiglia. E quindi questo aumenta la spirale dei suicidi, non la va a diminuire. Questo è in effetti gravissimo. Comunque quello che succede a una famiglia quando il capofamiglia si suicida è che vengono buttati fuori malamente, vanno a ingrassare le file dei senza nulla, e le loro case, le loro terre vengono messe all'asta. Spesso chi le ricompra per 4 soldi sono proprio quelli che gli hanno venduto le sementi transgeniche o i latifondisti che vivono lì attorno. Quindi diciamo c'è questa spirale, questo circolo vizioso assolutamente improbabile da superare all'interno del quadro di soluzioni che lo Stato sta proponendo. Sì. Infatti, vabbè. Nel senso che forse vi proporrei prima uno stacco musicale per poi passare all'altro, no, scenario che tutto questo discorso coinvolge, ovvero apre da una parte la questione sulla qualità della vita, sulle qualità delle vite e quali sono le soluzioni, quali sono le transizioni possibili. Però prima facciamo uno stacco musicale. Facciamocelo. Thank you. Ritorniamo in studio e mentre ascoltavamo di sottofondo la musica ci sono venute in mente un po' di domande e te ne pongo due. Vabbè, stiamo parlando di una situazione micro in India, in realtà vorremmo capire che cosa c'entra con noi, che tipo di relazione ha con noi questa storia che ci hai raccontato. E poi abbiamo parlato molto di uomini, di capifamiglia e vorremmo capire qual è il ruolo delle donne, che cosa fanno, che succede. Perché ci interessa una cosa che succede in India a noi che siamo in Italia? Guarda, la prima cosa che mi viene in mente è una frase che diceva Marx nei suoi scritti sull'India. Diceva che l'India è un'Italia di dimensioni asiatiche, sia per la conformazione, no? Mare attorno, protetta dalle montagne, la cultura, il cibo, questo, quest'altro, le relazioni. E sia anche per una serie di meccanismi politico-sociali che hanno una certa importanza, cioè di opposizione, di resistenze, di sopravvivenze di modi di produzione domestici nelle sacche del capitalismo. Quello che succede in India, sia sul piano degli OGM, perché sono stati sperimentati lì prima che da noi, sia sul piano anche delle resistenze in atto, di queste forme di antagonismo non violento che ha molto successo nelle lotte, secondo me sono un po' un faro anche da un punto di vista della nostra riflessione politica. E là cominciano le prime opposizioni, no, agli OGM, l'operazione Monsanto Cremation nel 99 con l'incendio delle piantagioni transgeniche. I contadini indiani incendiano il cotone BT, Bacillus thuringiensis, e BT cotton, e la Monsanto li denuncerà e il tribunale darà ragione ai contadini, dirà questa multinazionale ha seminato semi del male nel ventre di madre India senza neanche chiedere il permesso, quindi i contadini vincevano all'inizio molto anche sul piano giuridico, no? E questo ha rafforzato le nostre lotte qua contro gli OGM a Seattle, cioè da Seattle in poi si è parlato di OGM anche da noi, anche in Italia, no? Quindi anche le manifestazioni contro l'arrivo di soia transgenica, le navi piene di soia transgenica che arrivava dagli Stati Uniti, i contadini che bloccavano le navi, decine di migliaia di arresti. Quindi c'è stato molto movimento, le rioccupazioni delle terre e anche adesso le multinazionali che fanno insomma semi transgenici e che cercano di diffonderli in tutti i modi si trovano un'opposizione capillare negli stati, ovviamente dove il sindacato è più forte, dove c'è opposizione, dove non c'è opposizione ci sono più suicidi ovviamente. Hanno tentato anche con i referendum, quindi vediamo le strategie delle multinazionali in atto prima che da noi. Quindi è già un buon modo perché guardare all'India perché quello che succede là sta per succedere qua. L'anno scorso sono fallite 75.000 piccole imprese agricole in Italia. A me l'avevano detto, qualcuno ha detto guarda Laura che stanno 5-6 in piccole imprese agricole, magari unipersonali, però comunque piccole imprese agricole, stanno chiudendo i battenti ogni giorno in Italia. E poi un compagno mi ha fatto vedere i dati, 75.000 l'anno scorso hanno chiuso. Quindi la sovranità alimentare, quindi il settore primario, si chiama primario perché è di primaria importanza, che è l'agricoltura, che è il cibo, chiaramente quello che sta succedendo in India potrebbe in forme diverse cominciare a succedere anche qua con l'apertura dell'Europa alle sementi transgeniche, perché sappiamo che l'Europa ha perso in sede di WTO, ha perso perfino la possibilità di etichettare, perché l'etichetta questo contiene OGM, è diventato illecita barriera commerciale. Quindi le multinazionali hanno vinto contro gli stati e anche quindi contro l'Italia. Quindi adesso ci sarà l'apertura, la liberalizzazione più totale, e questo con tutti i pericoli di salute che ci sono nell'uso di OGM e con tutti i pericoli per la terra. Perché poi i semi OGM hanno bisogno di 5 volte tanto acqua rispetto ai semi normali, inquinano tantissimo le falde acquifere, provocano allergie, provocano diversi tipi di problemi anche fisici. Sono fatti con virus e batteri che contengono antibiotici come dei marker, per cui ci sono una serie di problemi enormi che noi già li vediamo in India, ma che tra poco avremo anche qua. Quindi la tua prima risposta, direi, perché l'India dice in grande quello che vivremo anche noi nel nostro piccolo, e per questo è importante guardare all'India e anche per le forme di resistenza. E qua vengo alla tua ultima domanda, perché la tua seconda domanda, perché le donne giocano un ruolo importantissimo a tutti i livelli. Prima di tutto perché le donne a livello tradizionale sono le keepers, le custodi dei semi. E quindi il fatto che le sementi non vengono più custodite, tramandate da madre in figlia, così come le prassi per la custodia, tramandata da madre in figlia, ma devono essere comprate sul mercato a dei prezzi esorbitanti e con un correlato di prodotti necessari al loro utilizzo, espropriando quindi intellettualmente e culturalmente il sapere contadino. Beh, questo è un cambiamento sicuramente grosso a cui le donne stanno facendo molta resistenza, anche a livello di villaggio, con Swaraj, con la democrazia vivente, riattivando forme di democrazia diretta di villaggio in cui le donne hanno sempre avuto un grande ruolo, anche riattivando forme culturali matriarcali molto importanti, come i culti delle dee. Per esempio, c'è una delle dee guerriere che è la dea che lotta contro i demoni dell'egoismo, che oggi loro rappresentano con nomi e cognomi di multinazionali. La dea che lotta contro i demoni dell'egoismo si chiama anche Durga Shakambari, è colei che protegge la fertilità dei semi e della terra. Quindi c'è perfino una dea protettrice dei semi e della terra che è scesa in campo per inversione combattente, sì, ha la spada, ha la lancia, ha il forcone, cavalca una tigre, ed è la dea, è la Shakti, è la dea della forza delle donne, della Shakti, cioè della forza proprio dell'utero, della vagina, della sessualità femminile. E quindi è la dea irata, Kali, no, la dea irata che taglia la testa dei demoni dell'egoismo. Quindi l'hanno attivata come protettrice delle pratiche, della lotta contro le multinazionali transgeniche. Quindi c'è una lotta che è culturale, che è perfino religiosa e che è molto, molto politica. La questione dei suicidi ha trovato il suo primo grande ostacolo in termini proprio di agency di genere nelle manifestazioni delle vedove dei suicidi. Le vedove dei suicidi e i bambini, i figli e le figlie dei suicidi hanno fatto grandi manifestazioni di decine di migliaia di persone con le immagini dei loro cari, talvolta un dipinto del loro caro, perché non avevano la fotografia, perché la foto si fa da vecchi, no? Non avevano la foto, quindi col dipinto della persona cara che qualcuno aveva fatto dopo la morte, attaccata al collo. E quindi diciamo che le vedove, così come le vedove dell'amianto Monfalcone, sono state le prime che in Italia hanno fatto capire che se 5.000 donne sono vedove per l'amianto, e forse l'amianto va messo fuori legge, no? Ecco, così come le vedove dell'amianto in Italia, lì in forma più in grande, ovviamente le vedove dei suicidi, queste decine di migliaia di donne, hanno attivato una coscienza popolare di insopportabilità di questo fenomeno, per cui lo Stato ha dovuto cominciare a sganciare un po' di soldi alle famiglie dei suicidi. Ovviamente troppo poco, troppo tardi, quasi nulla. E solo una famiglia su tre di quelle che chiedono effettivamente ottiene le forme di relief, perché servono almeno due ricevute di sollecito scritto della banca, cioè servono una serie di cose anche tecniche che sono veramente di ostacolo anche per le famiglie per potersi riprendere dopo il suicidio di uno dei loro cari a causa di questo. E poi c'è tutto un movimento sempre di donne, di ecofemministe, di empowering, proprio di dare potere alle donne nelle decisioni, di dare potere alle donne nelle forme della politica. Per esempio anche le donne si fanno arrestare, le donne contadine, quando ci sono, quando si fa satyagraha, quando si fa occupazione della terra, ovviamente vengono arrestate separatamente dagli uomini, eccetera. Però anche le donne adesso si fanno arrestare, non è più una cosa solo dei capifamiglia che si fanno arrestare. Per esempio, i primi 35.000 arresti a Bangalore contro i semi transgenici erano praticamente tutti uomini, e poi nelle manifestazioni successive anche diverse centinaia di donne si sono fatte, sono messe in fila per farsi arrestare, quindi contribuendo anche a una visibilità delle donne. Sono le donne in prima fila nei pellegrinaggi delle sementi, e sono le donne che continuano a fare donazioni delle sementi. Sono donne anche come Vandana Shiva, che dedica una parte del ricavato dei suoi proventi di lavoro di scienziata e della ricerca per distribuire semi di buona qualità gratuiti ai contadini, sacchetti di semi. Ogni anno si fanno questi pellegrinaggi dei semi, anche appunto in corrispondenza con le feste popolari per la fertilità della Dea Madre Terra, e vengono date le sementi pulite, non OGM, ai contadini perché ricomincino a utilizzare queste sementi. Quindi sono presenti le donne a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello spirituale, a livello antagonista, nelle piazze, e hanno un ruolo secondo me molto importante, quello di mettere gli uomini di fronte al fatto che queste scelte militari contro la natura, questo voler far produrre la natura di più di quello che produrrebbe, questo cercare di la monocoltura, il pesticida, il fertilizzante, no? Tutto ciò che non è natura va contro la natura, e tutto ciò che ci distacca da quello che è la nostra solidarietà organica di esseri umani, fatti per lavorare insieme, perché il lavoro sociale è il vero lavoro, no? Che ci realizza, la produzione di valori d'uso deve essere prioritaria rispetto alla produzione di valori di scambio. Ecco, le donne dentro ai meccanismi di democrazia vivente che loro hanno riattivato, e su questo vorrei veramente insistere, perché noi abbiamo tutto da imparare in termini di praticare la democrazia diretta, perché l'azione diretta è solo una parte della pratica della democrazia diretta. L'azione diretta nelle piazze, le manifestazioni, le occupazioni, accerchiare il Parlamento come hanno fatto loro i contadini e le contadine indiane per ottenere le terre non coltivate, per poter avere diritto alla vita, perché la loro Costituzione è fondata sul diritto alla vita, non sul diritto al lavoro. E quindi il riuscire a circondare per 3 giorni e 3 notti il Parlamento e poi ottenere che le terre occupate diventassero degli occupanti, ecco, sicuramente una grande vittoria. Una grande vittoria dove le donne hanno preso parte portando anche i sacchi con le lenticchie, perché fare 3 giorni e 3 notti di occupazione delle strade significa cucinare per strada, significa stare tutti insieme, condividere tutto. Significa questa comunità originaria che è ancora molto forte anche come idea, no? E dove le donne sono sempre state interfaccia, risolutrici dei conflitti ripristinatrici di forme del matriarcato che ancora sopravvivono a livello di villaggio, il matricentrismo, la matrilinearità, no? Anche perché la distruzione delle comunità diventa più prostituzione, diventa più violenza, diventa barbarie. E quindi è chiaro che la scelta è tra le comunità che si prendono cura di se stesse e lottano contro questi mostri a più teste che sono le multinazionali dei semi transgenici, le multinazionali che patentano la vita e che ne vogliono avere l'unico appalto, come se questo fosse possibile, no? Ecco, le donne su questo sono sicuramente contro ogni forma di manipolazione genetica, contro ogni forma che va contro la natura. Quindi sono delle estreme oppositrici in questo, oltre che delle fantastiche combattenti a livello di infondere forza nei momenti della lotta, come abbiamo visto anche contro la Tata Fiat L'anno scorso, come abbiamo visto anche in molte altre occasioni, contro le dighe, contro il taglio degli alberi, abbiamo visto le donne incatenarsi agli alberi, non abbiamo visto gli uomini incatenarsi agli alberi, no? Ecco, le donne hanno perfino spaccato le tribù su questa cosa. Quando gli uomini volevano andare a lavorare per un salario, per le compagnie di loggers che tagliano gli alberi, le donne si sono incatenate coi figli agli alberi contro i loro stessi mariti. Ecco, le donne indiane hanno questa capacità di capire qual è la cosa più importante, di capire che è più importante la natura, è più importante mantenere la dignità della propria vita, l'autonomia alimentare, piuttosto che avere un salario, piuttosto che avere quattro soldi e vendere la terra e doversene andare in città. Quindi la loro resistenza è capillare ed è anche basata su una forte sorellanza che tra le donne c'è. Una forte complicità, questi centri per la salute della donna che crescono in giungla dappertutto, che crescono nelle parti più povere anche di quelle che noi qua chiameremmo bidonville, che sono comunque le aree dove vivono gli intoccabili, no? E che adesso vogliono distruggere per fare speculazione edilizia, perché c'è una resistenza anche su questo. Ecco, io vedo anche molto rispetto che le donne riescono a ottenere dagli uomini, rispetto nella loro specificità, nella loro femminilità, nel loro modo di essere proprio, nel loro voler fare figli, nel loro voler comunque mantenere diciamo un ruolo che per loro è sacro, che è quello di essere coloro che producono la vita, e quindi sono anche loro coloro che la vogliono difendere in prima persona. Senti, sperando di fare a tempo, un'ultimissima domanda su quello che hai accennato nella prima parte di questo pomeriggio, cioè come superare questo, se i tempi sono maturi per superare questo sistema, cosa iniziare a fare, quali sono le soluzioni di prima mano? Diciamo che si può rispondere a questa domanda a più livelli, no? A più livelli. Sicuramente i tempi sono maturi per il superamento di questo sistema, no? Il suo sistema sta dimostrando di essere antieconomico. Se è vero che il capitalismo ha avuto una sua fase rivoluzionaria, no? Che potrebbe anche essere discutibile, è vero che oggi il capitalismo non ha più ragione di esistere. Eppure continua ad andare avanti. Quindi è chiaro che qualsiasi forma di resistenza individuale, collettiva, organizzata, non organizzata, qualsiasi forma di resistenza ritengo che sia importante. Ma nel calderone di tutto ciò che è possibile fare, diciamo che alcune cose spettano a noi e alcune cose penso spettino anche agli stati, visto che lo Stato, la forma Stato c'è ancora, lo Stato ancora esiste e evidentemente ci sono stati che si lasciano invadere dalle multinazionali e ci sono stati che fanno anche loro un po' di resistenza. Quindi quelle che erroneamente vengono chiamate misure protezionistiche evidentemente hanno una ragione di esistere nel momento in cui, per esempio, l'assenza totale di misure protezionistiche, il liberismo, fa sì che gli Stati Uniti possano, per esempio, comprare del riso, una multinazionale americana può comprare del riso in Thailandia che costa la metà di quello che costa in India e rivenderlo in India per far fallire le piccole imprese, le medie imprese di riso indiane, accaparrandosele e dopo quindi no? Entrando e prendendo quote di mercato, eccetera. Quindi queste cose non devono più essere possibili, cioè uno Stato non si può far gabbare in questo modo, altrimenti uno Stato totalmente asservito alle multinazionali. Quindi quello che chiedono i contadini è che lo Stato faccia il suo mestiere di Stato, cioè di privilegiare diciamo le piccole e medie imprese locali rispetto alle grandi imprese multinazionali. I contadini chiedono anche questo, può essere discutibile, però i contadini fanno anche questo tipo di richiesta. Le quote, cioè che non ci debbano più essere delle quote oltre le quali tu non puoi produrre perché deve essere importata la stessa cosa che tu potresti produrre qua da un'altra parte, come è successo da noi per le quote latte. Cioè i nostri contadini che facevano il latte, che non potevano più produrlo perché arrivava il latte dalla Germania a meno prezzo e noi eravamo costretti a comprare il latte tedesco anziché comprare il latte nostro. Cioè queste cose non possono succedere, anche perché se noi le lasciamo succedere, poi succede anche, come è successo in Italia, che l'opposizione a queste pratiche, chi le cavalca? Le cavalca magari un movimento razzista, come è successo nel nostro caso. Quindi è chiaro che poi la xenofobia anche in India poi si va a attivare contro quelli che producono a meno e ce lo portano qua, contro i cinesi, contro i thailandesi, contro, no? E quindi questo poi apre dei varchi alla solidarietà tra lavoratori a livello internazionale. E questi varchi evidentemente non dobbiamo lasciare che esistano. Quindi un conto, allora c'è un'avvertenza nei confronti dello Stato che dia più supporto al settore agricolo, che riapra i rubinetti del credito con una legge, che dia ai contadini le sementi certificate invece di chiudere gli istituti di ricerca pubblici e di finanziare con quei soldi gli istituti di ricerca delle multinazionali che faranno poi fallire le imprese pubbliche, che faranno poi fallire le imprese nazionali piccole e medie, no? Cioè c'è un circolo perverso nell'apertura totale al neoliberismo. Quindi sicuramente c'è qualcosa che lo Stato deve cominciare a fare, i suoi interessi di Stato, semplicemente questo. Da una parte, dall'altra parte, e invece qua lo Stato non c'entra, dall'altra parte ci siamo noi, i movimenti sociali, ci siamo noi, agenti di trasformazione a livello globale. E qua il nostro ruolo, secondo me, è molto importante, perché non è solo un ruolo di solidarietà, perché oggi quello che avviene qua avviene là, e quindi non è più solo la solidarietà ai contadini indiani. Noi dobbiamo cominciare a dare solidarietà ai nostri contadini, anche per evitare che diventino tutti dei leghisti. Dobbiamo cominciare a dare solidarietà, sì, a comprare a chilometro zero, ad avere gruppi d'acquisto solidali, ad avere orti di città, a prenderci pezzi di terra, a fare guerriglia gardening, a fare qualsiasi cosa sia nella direzione della nostra sovranità alimentare, della nostra autonomia. L'autonomia è anche questo, e secondo me è molto importante. Riprenderci la terra. Riprenderci la terra, avere un rapporto con la terra. Le donne indiane sono così intelligenti e coi piedi così per terra perché loro nella terra ci credono. Noi con l'industrialismo ci siamo staccati dalla terra, abbiamo pensato che i contadini fossero degli ignoranti, invece loro hanno un sapere che è millenario. Queste contadine hanno la conoscenza delle erbe, hanno la conoscenza delle bacche, delle radici. E questo sapere, secondo me, che è il sapere delle streghe, che è il sapere della nostra anche agentività come compagne, come femministe, questa cosa secondo me va rivalorizzata, a partire proprio da un rapporto anche concreto con la terra. Quindi si può fare lavoro a più livelli. Molti pensano che la richiesta di reddito garantito, di salario per tutti, sia la cosa migliore che possiamo fare. Certo, sì, possiamo chiedere reddito garantito per tutti. Ma qualche contadino indiano potrebbe anche pensare che tutto quello che noi abbiamo in più qua sia qualcosa in meno per loro là. E quindi interrogarci sui nostri privilegi bianchi, sui nostri privilegi occidentali, sui nostri privilegi, sulle nostre rendite di posizione. Quello che noi abbiamo in più qua è qualcosa in meno che loro hanno là. Ogni, come diceva anche l'editore di questo libro della Odradek, Claudio Del Bello, fare un libro è un costo anche ecologico, è carta. vale la pena fare un libro se vale la pena leggerlo, comprarlo, studiarlo, discuterne, altrimenti è meglio non farlo. Ogni libro in più qua è meno riso per loro là. Quindi ripensare i nostri consumi in termini di riciclo, riuso, riduzione della nostra, no? Il riscaldamento acceso e la finestra aperta, lo facciamo anche noi. Prendere la macchina quando potremmo andare a piedi, cioè anche a livello individuale. Penso che molte cose vadano fatte affinché ognuno di noi, ognuna di noi, sia parte della soluzione e non parte del problema. Già questo penso che a livello anche interno nostro sia molto importante, sia importante per noi stesse come persone. E poi a livello collettivo, già 10 anni fa, quando era ancora vivo il vecchio leader indiano, che oggi non c'è più, ma c'è Vandana Shiva, c'è il suo istituto di ricerca, perché non pensare a un anno di lavoro con i contadini e con le contadine, qua e là, cercando di ottimizzare quel tempo, perché anche lo spostamento è antiecologico, ma ottimizzare quel tempo come scambio di cultura, come scambio di informazioni, di capacità di lotta, di pratiche di democrazia diretta, no? E di pratiche anche di rapporto con la terra. Come sentirci davvero quel proletariato globale che oggi possiamo essere? E anche sul piano femminista, come possiamo sentirci oggi a livello di genere, sorelle con quelle donne che producono il riso che noi compriamo per un euro al mercato? Come possiamo, ecco, agganciare anche questa dimensione che è politica e che è etica del femminismo? È importante anche, diciamo, ecco, fare un esercizio di collegamento di tutti questi pensieri quotidiano. E Laura, noi ti ringraziamo moltissimo, ricordiamo di cosa, da che cosa siamo partiti, almeno per parlare di anche altre cose, comunque dal libro di Vandana Shiva che tu hai curato, di cui hai scritto una introduzione. Sì, vorrei fare un ringraziamento al team di traduzione, assolutamente, se posso. Come no. Ecco, ringraziare il team di traduzione, oltre a tutti quelli che hanno fatto ricerca, che sono decine di persone che hanno fatto ricerche su questo tema così difficile, in India, in Italia mi hanno aiutato Claudio Meloni, Irene De Franco, Marta Baldocchi, Emanuele Acchino e molte altre persone che hanno tradotto pezzi, fatto glossari dall'India, cioè è stato veramente un lavoro enorme. E il frutto vale veramente la pena della nostra lettura e della nostra riflessione. Allora, grazie. Ripetiamo magari il titolo, che è il libro I semi del suicidio, uscito per Odradek Edizioni, Vandana Shiva, Laura Corradi che ci ha aiutato a presentarlo e che l'ha curato. E in conclusione mi chiedono di dire che musica abbiamo sentito di sottofondo. Anushka Shankar. E invece abbiamo aperto la trasmissione con Falguni Patak, che è una non indiana, non mi ricordo di dove, niente. E poi adesso invece concludiamo con Meira Asher. Ciao. Ciao. Ce lo fai un dedica con Lama kama salamale, lama kama salamale, kilo dama, le kilo dama dam, dama dam, lama kama salamale, salamale, ani, ani gone.